Una delle questioni che sta animando la politica negli ultimi giorni, la campagna elettorale, è la questione Alitalia. Questa mattina è arrivata la seconda proposta di Air France per l'acquisizione della nostra compagnia di bandiera. Poche però le novità rispetto al piano precedente. 2120 esuberi, riduzione della flotta, via 37 aerei passeggeri e 2 aerei cargo per il trasporto delle merci. Attività questa destinata a chiudere nel 2010. La proposta di Air France si condensa in 9 pagine, poche le aperture che consistono soprattutto nella garanzia di maggiori ammortizzatori sociali per i dipendenti in esubero. Nessuno sarà lasciato a casa, dice il numero uno Spinetta. In qualche caso ci sarà il pensionamento, in altri aiuti per riqualificarsi. Nel dettaglio gli esuberi sono così suddivisi: 1500 per Alitalia, 100 tra i lavoratori all'estero, 500 nelle attività di AZ Servizi che verranno in parte ricompresi nell'offerta d'acquisto. Nel documento affiancato alla proposta, Spinetta promuove la strategia di crescita sostenibile e redditizia su cui punta per la compagnia tricolore, che manterrà, aggiunge, identità italiana. L'aumento di capitale nel caso di acquisto sarà di 1 miliardo di euro. Poi le ultime parole, forse quelle più significative. Non possiamo fare di più, si legge nella lettera inviata, senza mettere in discussione le fondamenta stesse del nostro progetto per Alitalia. Parole che suonano tanto come un prendere o lasciare. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è già un incontro sindacale, ci sono già le reazioni. Chiara Di Michele, lo stai seguendo per noi. Buongiorno, che cosa dicono i sindacati? Sì, buongiorno, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. I sindacati stanno valutando le nuove proposte di Air France KLM per l'acquisto di Alitalia. I commenti rilasciati prima dell'inizio della riunione qui nella sede della FILT CGL non lasciano presagire nulla di buono. Per l'Unione Piloti e Will Trasporti il documento inviato questa notte da Spinetta è inaccettabile. Se questa è la risposta, dicono i sindacalisti, la rispediremo al mittente. Per l'UGL non è stata recepita nessuna indicazione. Vogliamo un negoziato, non una resa, dice il segretario nazionale Roberto Pannella. C'è poi la netta chiusura dei piloti dell'ANPAC che hanno deciso di non partecipare al tavolo intersindacale. Per loro il piano Air France è un capitolo chiuso. Tra i nodi più critici per i sindacalisti rimane in primis quello degli esuberi. Per il momento da Roma è tutto, a voi la linea.